Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Razzi, ma l'avrete sentito tutti, si è proposto come mediatore dell'ONU, essendo molto amico di Kim Jong-un. Ora, se è vero che Kim Jong-un è un amico di Razzi, è il fatto che abbia la bomba atomica è il male minore, vi rendete conto? Io Kim Jong-un lo conosco come persona, sì, è uno che ci puoi stringere la mano, no, beh, però ci puoi parlare di tutto, sì, però fa delle poi cose. Se lui la sera per sfagarsi e non stare con la moglie che gli scassa la minchia, ma lasci stare. Va in cantina a tirare qualche bomba, è normale. Ma anche mio cognato che va sempre in cantina la sera, sì, ma non ci... che ha questo hobby di fare con gli stuzzicadenti, sì, i modellini delle bagasce moldave. Non ci interessa il suo cognato. A mio cugino invece fa il vino con l'inchiostro della Bic, no, ma non ci che ruba le poste. Vabbè, ma e lo vende in Albania come Montepulciano biodinamico. Ma non ci sono interessa. Sono gli esperimenti che l'uomo fa in cantina. Ma non c'entra. Le cantine nascono proprio per quello, per avere un posto dove farsi di cazzi tu. No. Chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Eh sì, è il Crozza Razzi, mamma mia ragazzi, Razzi, Antonio Razzi, Kim Jong-un, beh fantastico, Antonio Razzi, risolve tutto lui, vabbè cari italiani, sono le 6:32 minuti, questo è 24 mattino, con Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, il Milan in semifinale di Coppa Italia, abbiamo spezzato le reni al Carpi e quindi avanti. Oh, oggi grande notizia per i partiti italiani, oggi su tutti i giornali, è l'apertura di Italia Oggi, ma anche sugli altri giornali, cioè, eccolo qua. Sapete quanti italiani hanno contribuito con il 2 per 1000 ai partiti? Il 2,7%. Meno di 3 italiani su 100 hanno dato l'aiutino e il 2 per 1000 ai partiti. Tra l'altro io vorrei conoscere questi 2,7%. Questi 3 italiani su 100, metterei 100 persone e cercherei di individuare quei 3 dalle facce che hanno dato i soldi ai partiti, col 2 per 1000. Oh, è una scelta legittima, per carità. Così è, poi come esperimento sociologico. Ma... Vabbè. 2 per 1000, 2,7% di contribuenti. Vorrei subito chiedere, voi ascoltatori, voi che fate? Li avete dati? Ditecelo al 349-238-6666, magari fate parte di questi. Vorrei chiederlo subito anche al direttore di Oggi, Umberto Brindani, che ritrovo con grande piacere. Buongiorno direttore, eccoci qua. Buongiorno. Tu sei uno di quelli, che ha dato... No, io non sono uno di quelli e pensavo esattamente la stessa cosa. Anche perché se guardi il numero assoluto, sì, sono più di un milione. Un milione. Un milione e 100.000 italiani che hanno dato i loro soldi ai partiti, cioè l'istituzione più screditata della Repubblica. Un milione 106.288 per la precisione, però sono il 2,3%. Sono la metà dei quali, la metà al PD, però. La metà al PD, d'altronde si rispecchiano un po' i voti. Esatto. Il 40% alle ultime elezioni europee e metà al PD, non so. caso. Però tu pochissimi non... a Forza Italia. Pochissimi a Forza Italia. Tu non sei tra questi, comunque. No, no, no, no, non sei tra questi. Non sono, cioè, anch'io vorrei conoscerli personalmente uno per uno. Non lo so. Allora, vediamo, proviamo a chiederlo a uno che di politica si è occupato un bel po'. Antonio Di Pietro, come sta Di Pietro? Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, 2 milioni di persone, praticamente ognuno che fa politica, perché poi in Italia prima partita fa politica. Si sono dati almeno 2 per 1000. Questo è vero. No, Di Pietro, non le ha dati lei i partiti? No, non ho dato più un cavolo, gli ho già dato troppo. Ma hanno già succhiato il sangue. Dal mendicante fuori dalla chiesa. Ah, ecco. Meglio così. Vabbè, dai, apriamo il Parlamento. Siamo con Antonio Di Pietro e con Umberto Brindani. Dopo il caffè del ministro Boschi, ci vediamo più tardi. Va bene, il Parlamento è aperto ufficialmente. Allora, eccoci qui. Però il dato Di Pietro è: sono pochi o tanti? Sono pochini quelli che hanno dato 2,7, però sono 1 milione di italiani. Però. Se lei va a fare i conti, sì, di quante persone di Riff e di Raff fanno politica, sì, e quindi sono soldati a se stessi, siamo quasi di 1 a 1. Ma perché uno che fa politica dà i soldi ai partiti? Non lo so. A se stessi, ragionamento, perché poi lì i partiti si mettono d'accordo che danno i soldi, vanno ripartiti nel territorio dove sono avvenuti i riversamenti, e quindi alla fine se lo dirà. Non lo so, può essere un ragionamento. Brindani, si autofinanziano così, cercano di sostenersi. No, non si autofinanziano, fanno il giro della saccoccia alla destra. Vabbè, il giro della saccoccia, chiamiamolo come vogliamo. No, resta secondo me una cifra molto alta. Cioè, la sorpresa, la notizia, diciamo, non è che sono soltanto il 2,7%, ma che sono più di 1 milione. Sono più di 1 milione di italiani che hanno fiducia nei partiti, poi saranno pure quelli che ci lavorano e che ci marciano, che ci mangiano, però insomma sono tanti. Sono tanti. No, che dice Di Pietro? Voglio dire, perché dobbiamo offendere questa gente? Brava gente. Ma no, ma per carità. Cioè, no, ma scherziamo. Si scherza. Ma lo sai, quelli là poi sono rancorosi. Quelli là sono rancorosi. A proposito, ma Razzi, Di Pietro, quel che sta di Razzi? Voglio dire, alla fine, questi Razzi ha portato una filosofia, fateli cazzi tuoi. La filosofia di fatti di cazzi tuoi, ma sta facendo anche i cazzi di tutto il mondo, sta cercando di salvare dall'atomica. Questa non gliel'aveva detta Razzi, che aveva in prospettiva quella di salvare il mondo. L'avrei fatto presidente del Consiglio. Di salvare il mondo, forse quando si è presentato a Di Pietro. Ci crede pure, secondo me ci crede abbastanza. Dire, vabbè, io, a me una volta mi ha fatto festa, ma mi pare che sta facendo festa un sacco di persone un sacco di volte. No? Sì. Brindani, questo Razzi qui, insomma, dobbiamo tenercelo buono. Io ce l'ho messo una volta, ma mi pare che lui sta sempre lì, quindi vuol dire che tante altre abboccano. Non è solo che ti ha fatto festa Pietro, ricordo male. Ma mi pare che sono 357 oggi come oggi i parlamentari che in questa legislatura hanno cambiato bandiere, perché vi ricordate solo di questi? 356 che fino alla fine. Hai capito, Brindani. Cioè, qua i politici sono pronti a fare fessi, i leader di partiti si presentano, dicono noi facciamo questo. Ma i politici in questo momento stanno facendo fessi ai cittadini italiani. Ecco. Per questo che bisogna abolire il Senato. Perché dice così, è la metà di persone che fanno fessi, insomma. Perché Di Pietro sta col fronte del no? Esatto, perché Di Pietro? Perché Di Pietro sta col fronte del no contro questa riforma? Cos'è? Una cosa per andare contro Renzi, per farlo? Renzi, a parte il fatto che c'entra Renzi, quando si cambia la Costituzione italiana non lo si cambia per Renzi o contro Renzi, perché lui poi prima o poi pure lui mette l'anima al Signore. Il problema di fondo è che poi quella Costituzione cambiata rimane. Quindi quando tu hai fatto uno sfregio, lo sfregio rimane pure dopo. Non è che diciamo, per fare un po' con Renzi lo voto, ma ti tagli le palle da solo. Insomma. Certo. Indipietrese Brindani, hai capito? Non ci taglia le palle da solo. Però si trova in una strana compagnia, una compagnia, diciamo, storicamente... Io sono convinto che mi troverò anche in compagnia tua. Vabbè. Perché mi pare che sia una persona intelligente, quindi... per esempio, tra l'altro, in compagnia di Berlusconi, ecco, giusto per... O di Cirino Pomicino. O di Cirino Pomicino. Io credo che mi si trovi in compagnia di tutte quelle brave persone. Lascia stare, io penso che quando tratta di cambiare la Costituzione italiana non è un motivo di scherzarci sopra, come ci hanno scherzato chi l'ha cambiato. Perché fare in modo che la classe politica che non uscirà fuori a seguito di quella modifica è una classe politica che non deve rispondere, non è stata eletta, non è stata scelta dagli italiani, a me pare che sia un po' mettere le mani in mezzo alla M. Insomma, Brindale, mi sembra di capire che qui non è una battaglia, anche se Renzi la pone come la madre di tutte le battaglie. Se perdo vado a casa, non è... No, guarda, quello è un artificio a raggiro per indurre i cittadini in errore. Quella battuta che ha fatto Renzi, se perdo, se vinto, è gravissima, perché legare la riforma costituzionale a se stesso vuol dire che quella riforma costituzionale è stata una scelta di partito, scelta di governo. Ma mai e come mai le riforme costituzionali si fanno per favorire questo o quel governo? Lo si deve fare dopo la nostra vita. In generale, insomma, è una riforma che va oltre il destino politico di qualcuno. Ma è il destino politico di un paese, ragazzi. La mattina cambia la riforma costituzionale. No, qua direttore, che dobbiamo dire? Qua insomma, Di Pietro dice non è questione di essere pro contro Renzi, è questione di essere pro contro la riforma costituzionale che rimane a lungo. Sì, rimane a lungo, però poi nel merito pochi poi vanno a vedere nel merito quanto è giusto. Non è giusto. E questa è la fregatura. Scusa Di Pietro, si parla di un Senato di nominati, però alla fine il Senato, come previsto dalla riforma, sarà comunque eletto dai cittadini, anche se in diretta. Cioè, ho l'impressione che quelli del fronte del no ce l'abbiano più col governo Renzi che non con la riforma in se stessa. Detto questo, ha ragione Di Pietro quando parla del fatto che insomma, Renzi rischia seriamente, perché al momento, con il referendum, perché al momento i sondaggi lo danno al 60%. Sì. Però si muoveranno tante cose di qui a ottobre-novembre, quando ci sarà il referendum. È un grosso rischio, ha ragione Di Pietro, aver messo in campo la propria persona per come dire, difendere quella che dovrebbe essere una riforma condivisa. Sì. Da questo punto di vista ha assolutamente ragione. Ma tra l'altro c'è una vulgata politica questa, a dire che Renzi pone tutta la sua il suo destino politico nelle mani di questo referendum, perché sa già che le amministrative andrà male, e quindi, come dire, si pone già una rivincita per le amministrative che invece non daranno butta la palla in avanti. Potrebbe essere una lettura politica, cioè, come dire, visto che sa già che tra Torino, Roma, Milano, Napoli non arriveranno buone notizie, dice, guardiamo già oltre all'obiettivo successivo. Sì, lui dice che sostanzialmente l'interpretazione che lui pensa dà un valore locale alle elezioni a Milano, a Roma, per i sindaci, anche se tutti sanno che il valore è nazionale, e quindi butta la palla in avanti. Come la pensa Di Pietro? Come la pensa anche Salvini? Siete in compagnia anche di Salvini, Di Pietro? Senta qua Salvini, Salvini su mandiamo a casa Renzi col referendum. Se Renzi dice sarà un referendum con me o contro di me, se perdo vado a casa... Bene, do appuntamento a 60 milioni di italiani che non possono votare il loro Presidente del Consiglio da tre volte consecutive a ottobre, e lo mandiamo a casa tranquillamente col voto degli italiani. Vedi Di Pietro che poi non è solo Renzi che ci crede, cioè poi si alimenta questa cosa, cioè diventerà un plebiscito pro contro Renzi, e la comunicazione poi è così. E io sono molto amareggiato che la Costituzione italiana si gioca sul plebiscito pro contro una persona, sul piano proprio... diciamo che dello Stato di diritto sono molto amareggiato che succede questo, perché io credo che la Costituzione italiana sia una di quelle poche cose su cui non bisogna scherzarci sopra, perché poi alla fine, voglio dire, per la guerra sono morti milioni di persone, quindi sono molto molto scettico su questo. Detto questo, sulla risposta di precedente, non credo che Renzi voglia fare la riforma, la riforma se fa lo stesso, che lo voglio o non voglio, quindi lui non concede nulla, perché lo prevede la Costituzione, che se ci stanno 120 parlamentari che gli dicono che lo vogliono, la Costituzione si fa lo stesso, il referendum si fa lo stesso, se lo chiede un certo numero di cittadini il referendum si fa lo stesso, quindi voglio dire, non sta concedendo niente, si sta appropriando di un gelato che ce l'hanno gli altri in mano e lui fa finta che lo dà. Detto questo, io non credo che lui ha fatto questo telefilm per far dimenticare quel che accadrà nell'amministrativa, perché nell'amministrativa, voglio dire, chi sta peggio dammi una botta, perché non ho capito chi viene, voglio dire, perde Renzi perché chi vince? Sì. Non ho mica capito io chi vince, qui il più buono, voglio dire, è disperato, perché non ancora riescono a trovare nessun candidato. Quelli che sembrano emergenti, i miei amici del Movimento 5 Stelle, cavolo, proprio in questo momento sono un po' in difficoltà. L'hanno messo in mezzo a un campo di letame. Anche in mezzo, sono in mezzo a un campo di letame. Qua il contadino di Pietro che esce, Brindani. Come sono, gli amici del Movimento 5 Stelle sono in un campo di letame. Insomma. Allora, io ho detto qualcosa di più diverso. Ho detto, sono scivolato su una buccia di banana e l'hanno messo artificiosamente. È un po' diversa la storia. Cioè, sono scivolati sulla buccia di banana e sono finiti, o li hanno messi. L'informazione l'informazione. La banana in altra cosa. Era una buccia di banana e l'hanno dipinto come un. Ci sono arrivato. Tra l'altro, c'è Angela da Bologna che scrive: io ho dato il 2 per 1000 e ne vado orgogliosa. Anzi, dice: brutto cretino di un Milan, come dice quella signora famosa. Sì, non ho capito. Quante botte ti darei, cretino d'un Milan. Non ho capito cosa ha detto. No, che sono orgogliosa e non ho capito male, e ne vado. No, che ne vado orgogliosa, non e vado. C'è un Di Pietro scintillante questa mattina. Tra l'altro mi chiede un ascoltatore se Razzi parli o meno il coreano. Non so, Di Pietro, nel curriculum che aveva presentato c'era... Ma voi non so se avete visto, state vedendo il film là 1992. Beh. Una delle cose che vogliono far passare a me è che io facevo l'agente segreto, una volta gli americani, una volta gli russi. Sì. E io... E infatti mi sembra detto, ma con che lingua parlava io? Vabbè, ma qualche volta i servizi segreti, cioè ci sarà stato in contatto, no, Di Pietro? Sì, io? I segreti vedevo solo le celle quando andavo a trovare i detenuti. Le segrete celle, vabbè. niente, oggi è così. Dai, andiamo al traffico, poi rientriamo con Antonio Di Pietro, Umberto Brindani, direttore di Oggi. Alino, manda il traffico, dammi il traffico, por favore, il traffico. Le paginate che i giornali italiani dedicano a Quarto la dicono lunga sulla carognaggine dei giornalisti nostrani, tutto prostrato al sistema mafioso, altro che. Sì, Alessandrino, buongiorno. Ma hai visto la Boschi con le sue C e con le sue F, come l'ha buttato in tasca a centinaia e migliaia di pensionati, come risuonano le C e le S? Gli ha fatto un culo a capanna e poi in televisione dalla Gruber va anche a sorridere, a ridere. Mi viene da ridere a vedere la flotta di tutti i seguaci di Renzi scagliarsi così contro i 5 Stelle, è una cosa ridicola. Vedono il bruscolo, il minuscolo puntino nell'occhio dei 5 Stelle e non si guardano loro. Vedi Brindani, che la linea di Pietro, no? La buccia di banana che è stata trasformata in un campo di letame, qualche ascoltatore lo fa notare, cioè, per dire, di Banca Etruria non si parla più, no? Il caso Etruria, adesso tutti a Quarto. Ad altre banche adesso. Sì, no, tutti a Quarto, ombelico del mondo, no? Quarto. Manco sapevamo che esistesse Quarto fino a 10 giorni fa, e invece adesso... Circolano delle battute bellissime sul video di ieri dei tre moschettieri. Tre moschettieri. Il più bello secondo me è di Zucconi. Cioè? Qui, Quo e Quarto. Qui, Quo, Quarto. Beh, insomma, anche questa non è male. Qui, Quo, Quarto. Allora, però attenzione, qui vi devo far sentire un tale Barbara Mannucci della lista con noi, noi con Salvini, sempre lì andiamo Di Pietro, sempre lì. Sentite cosa propone Barbara Mannucci per la questione degli immigrati, anche quello che è successo a Colonia. La soluzione è pratica, subito, immediata. Io ho detto, la castrazione, ha ragione Salvini quando dice la castrazione chimica, appena, ma non quando già sarà, appena entrano nel nostro paese, bisognerebbe dargli la paschicchetta e castrarli subito, ancora prima che fanno qualcosa, così almeno abbiamo risolto il problema. Ma come? Cioè, appena entrano nel nostro paese? Assoluta, basta, non se ne può più. Eccolo lì, basta, non se ne può più. Di Pietro, questa è insomma abbastanza brutale, preventiva potrebbe essere, la castrazione. Se dovessimo fare questo, io penso che anche parecchi italiani, meno ne rimarremmo. Anche italiani, sì. Perché io questa volgarità, questa oscenità, questa violenza, non credo che abbia colore. Esiste, io è in difesa appunto di delle donne, di tutte quelle che vengono violentate. Io ovviamente non posso dire che sono a favore della castrazione, perché è un blocco medievale antico. Però voglio dire, se la legge deve essere uguale per tutti, tagliamogliela a tutti. A tutti quanti. Una banda di uomini castrati, brindate così. No, qui la vuole preventivamente, questo è il rischio, brindare. È una proposta che mi fa venire in mente un'altra battuta, questa è su Oggi, settimanale, scritta da Luca Bottura. Sai come chiamano Salvini in Corea? Come? Kim Jong-un Pirla. Vabbè, oggi è così, oggi è così. Comunque questa Barbara Mannucci, gli amici di Radio Campus, così era Radio Cusano Campus, ha fatto questa proposta un pochino radicale, che dovete dire. Però visto che questa storia del Movimento 5 Stelle a quarto ancora sui giornali, oggi è pieno la sindaca che resiste, ma che farebbe di più? Fa bene Grillo a espellerla? Ha fatto bene, cioè politicamente, cioè, sai che Grillo non ci pensa due volte. Una cosa è il mio affetto e la stima che ho avuto per Grillo, perché ha fatto un movimento politico, che almeno tutti quelli che erano arrabbiati sono andati in cabina a votare e non a macchine e vetrine. Quindi voglio dire, gli va fatto un monumento per aver creato un contenitore per proporre un'alternativa. Sì. Dopodiché, e quindi io sono molto d'accordo e contento che nel paese stanno arrivando a fare politiche persone che non l'avrebbero mai potuto fare se si stava appresso Detto questo, però, io personalmente ritengo che queste espulsioni, perché dentro il suo partito un candidato è stato eletto con i voti di... Io faccio sempre questa scelta da contadino. Quando raccolgo le mele, riempio il cesto, trovo ogni tanto la mela marcia, butto la mela marcia, non il cesto. Butta la mela marcia e vabbè, insomma, qui però non si capisce, questa è una cosa un po' strana, perché Brindani non è neanche la mela marcia qui. No, la mela marcia non è la sindaca, la mela marcia è quello che ha preso i voti del... Ah, e allora doveva essere a posto così, l'hanno buttata e non si capisce perché devono espellere il sindaco. Infatti io personalmente non sono d'accordo sulla espulsione di un sindaco che semmai è vittima e non autore di un atto criminale. Un sindaco che cerca di andare avanti una giunta fra mille difficoltà in un paese, in una città dove si è sciolto per mafia, un sindaco che ha resistito anche alle pressioni, un sindaco dice non mi frega niente di quel che voi cercate di fare del dossier contro di me, io vado avanti fino alla fine, quindi che ha le palle e io dico ti tolgo via perché non me l'hai detto, ma cazzo, patriziale. Io penso che il problema della Capuozzo del Movimento 5 Stelle sia il fatto che il Movimento ha chiesto e chiede purezza assoluta, quindi il sindaco... Ma questo è il problema, capito? Cioè Grillo, nel momento in cui tu devi essere assolutamente puro, il sindaco ha fatto l'abuso edilizio, non ha denunciato le pressioni e i ricatti. Allora diventa... L'abuso edilizio non l'ha fatto il sindaco. Seconda cosa, l'abuso e il ricatto, torno a ripetere, uno... L'ha subito. No, ma evidentemente, non, attenzione, non l'ha subito, perché se l'ha subito gli dava ragione, l'accontentava. Non l'ha denunciato. Il denunciare, io sono d'accordo, io sono il primo che dico che bisogna denunciare sempre tutto e tutti. Dopodiché la tempistica della denuncia ha i suoi tempi, ha le sue maturazioni, ha le sue alternative rispetto a un sindaco che sta facendo il suo lavoro tutti i giorni sul territorio. Vabbè, dato di fatto che anche noi da un quarto d'ora stiamo parlando di quarto, questo è siamo caduti anche noi sulla buccia di banana. Non si sente più di Pietro. Dove è finito? Sul trattore che sta seminando. No, tra l'altro, Brindani ieri è riapparso Berlusconi. Ha fatto una conferenza, poi ha detto facciamo in fretta che c'è il Milan, doveva vedere il Milan spezzare le reni al Carpi, quindi insomma decidere su Mihajlovic, doveva decidere se cacciare Mihajlovic o no. È salvo, per ora. Però Berlusconi ha detto questa frase che mi ha colpito, cioè ho due candidati sconosciuti per Roma e Milano, se accettano vinciamo. Dai. Sì, ha colpito anche me questa cosa. A chi pensa? Ho cominciato a chiedere. Non è il bluff di Berlusconi. Sconosciuti e vincenti. Magari sarà Di Pietro. Appunto, perché Di Pietro aveva detto che magari ma i candidati per Milano e Roma. Milano per e Roma. La squadra di calcio. Ma no, a Milano e Roma, che squadra di calcio, per vincere i comuni di Milano e Roma. Gli passi che sta fermo, fa sicuramente qualcosa di più. No, non si è sentito. Ma dov'è Di Pietro? Dov'è finito? In cantina. In cantina. Come al solito. Non si sente più niente, basta, è finito in cantina. Di Pietro, quando si è parlato, si dice ma forse è lei il candidato a cui pensa Berlusconi, niente, Di Pietro è scomparso, si è imboscato. Allora glielo chiedo tutte le volte, si candida o no a Milano, Di Pietro? Abbiamo capito. Dai, ci dobbiamo fermare qui. Allora ringrazio Antonio Di Pietro, ringrazio Umberto Brindani. E il numero di oggi è l'edicola. Tra l'altro avete una testimonianza di Bossetti dal carcere, lo scoop. La lettera di Bossetti dal carcere nel numero in edicola. Allora vi ringrazio e ovviamente ci sentiamo alla prossima. 1, 2, 3 adesso. Tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, le 7:18 minuti, anche oggi siamo pronti a leggere i giornali, siamo qui con voi. E voi che state facendo? Ditecelo al 349-238-6666, vabbè è chiaro, cosa ci potete dire? Ti sto ascoltando, ovviamente. Siamo qui con Peter Bescapè, regia, Lorenzo Nespoli in redazione e i giornali che arrivano! È giovedì 14 gennaio, intanto i titoli, la finanza per il Sole 24 Ore, asta BTP tassi ai minimi, piazza affari in rialzo, questo è il titolo di prima pagina. Poi la politica è la scelta per il Corriere della Sera, le unioni civili, il caso si riapre. Così Repubblica, rivolta nel PD sulle unioni civili, no alle adozioni. E il Messaggero, unioni civili, numeri in bilico. La legge che approda tra poco in Parlamento e vede numeri ballerini. Per il giornale invece Renzi al minimo storico, sondaggi a picco, e tra l'altro c'è un sottotitolo, il tam tam dal CSM, papà Boschi indagato. Questo è il titolo di prima pagina. Poi la vicenda quarto, l'Unità, Beppe c'è posta per te, l'Unità pone 10 domande a Grillo su quarto e le omissioni, i silenzi, le ombre, i non sapevo. Ricordate le celebri 10 domande di Repubblica a Berlusconi? Ecco, l'Unità le fa per il caso quarto a Grillo. Libero invece truffa ai 5 Stelle, ma che ricatto il presunto abuso della sindaca di Quarto era noto da mesi, ma i grillini sono caduti nella trappola dei renziani. E il Fatto Quotidiano sposta l'asse a 25 km da Quarto, voti, favori, camorra, indagato in Campania, eurodeputato del PD Nicola Caputo. La Stampa invece, Bruxelles a Renzi, basta critiche, siete stati favoriti. È un'intervista al commissario europeo Moscovici. Queste alcune delle aperture, certo mi inquieta anche quella del secolo XIX. Due uomini ISIS in Liguria, sono armati e pericolosi e caccia da ore a un furgone grigio con targa belga a bordo del quale ci sono due appartenenti all'ISIS. Sono in Liguria, potrebbero passarci presto o sono già passati verso la loro meta finale, cioè la Siria. Questo è l'allarme che è in prima pagina del secolo XIX. Però io voglio partire da notizie che sono legate al tema, se volete, della salute, con uno sguardo mondiale. Prima, quella di Repubblica, pagina 23. Ricordate la vicenda dell'Ebola, il virus dell'Ebola che tanto ha allarmato il mondo, non solo l'Africa? Ebbene, 2 anni di paura, 11.000 vittime, ora l'Organizzazione Mondiale per la Sanità dice Ebola è finita. Buone notizie dall'Africa occidentale, l'epidemia di Ebola ufficialmente è finita, l'ha annunciato stamani, cioè ieri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anzi no, lo annuncerà stamani, quindi lo annunciano oggi. È stata dichiarata di fatto chiusa l'emergenza anche nell'ultimo paese in cui si era registrato un caso di infezione, cioè la Liberia. Oggi, spiega l'OMS, scadono i fatidici 42 giorni dopo la guarigione completa delle ultime 2 persone che si erano contagiate, indicata da 2 test diagnostici consecutivi negativi che escludono, cioè la persistenza del virus nel loro sangue. Si può perciò dire con ragionevole margine di sicurezza che la trasmissione da uomo a uomo della malattia è stata interrotta. Ovviamente è un'ottima notizia. Questo però, avvertono le autorità sanitarie, non significa che il continente africano sia Ebola free o che da adesso in poi la malattia non possa ricomparire da un momento all'altro. Il virus Ebola infatti non è un virus umano, è un virus di alcuni animali africani, probabilmente soprattutto di pipistrelli della frutta, per i quali è pressoché innocuo, e nell'uomo si presenta ondate epidemiche improvvise. C'è anche un'intervista al medico Fabrizio Pulvirenti, medico di emergency, che in Sierra Leone, lui infettivologo, era stato colpito da Ebola, è riuscito a guarire, spiega in questa intervista Repubblica la difficile lunga guarigione, anche il rischio proprio passato con gli organi che sono stati per giorni sull'orlo del collasso, poi dopo essermela vista brutta ce l'ho fatta, ho sconfitto il virus, ma aiutiamo l'Africa altrimenti può tornare. Insomma, questa è la prima notizia, l'annuncio dell'OMS che verrà dato oggi è una notizia positiva. Poi mi ha molto colpito e ha colpito i giornali nel discorso dello Stato dell'Unione di Barack Obama, che ha parlato di tante cose, ovviamente di politica internazionale, dell'invito a non odiare i musulmani, però ha parlato anche di una cosa che ha colpito molto, e cioè questa. Barack Obama è ricorso al termine di moonshot, cioè la conquista della Luna, per dire il nuovo sbarco sulla Luna dovrà essere, per i cari che abbiamo perso, per le famiglie che possiamo ancora salvare, la lotta contro i tumori. Questo è l'annuncio che ha fatto Obama, cioè facciamo dell'America il paese che cura i tumori. E ha annunciato anche una task force, sarà creata una task force per cercare di implementare la sperimentazione scientifica, la ricerca per le sfide contro i tumori. La Stampa intervista con Francesco Semprini a pagina 13, Virginio Sacchini, che è uno degli oncologi più celebri italiani e lavora in America al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, è un oncologo chirurgo specializzato nel tumore al seno, e dice: beh, l'invito di Obama è un invito a unirsi, coordinare al massimo tutte le ricerche e mettere più pazienti in studi clinici che sono la base nell'avanzamento della cura dei tumori. È un traguardo troppo ambizioso, visto che Obama punta a raddoppiare i progressi in 5 anni anziché 10? Eh sì, è ambizioso, ma è alla nostra portata, dice il professor Sacchini, per via di questo incredibile vantaggio che abbiamo nella genomica. Si è fatto parecchio negli ultimi anni in termini di tecnologia per esplorare meglio il DNA di ciascuno di noi e anche il DNA tumorale. C'erano limiti negli anni scorsi per la difficoltà nel sequenziare il DNA. Oggi è possibile farlo 20.000 volte meglio rispetto a qualche anno fa e con costi ridotti. Quanto corre in termini di fondi, chiede la stampa, il Congresso americano ha già stanziato altri 200 milioni di dollari da destinare all'attività genomica per capire meglio il tumore, sviluppare banche dati genomiche. Ritengo che sia un impegno sufficiente per ora, considerando che le ricerche genomiche stanno costando di meno grazie alle nuove tecnologie. Dunque, traguardo alla portata, dice il professor Sacchini. Tra l'altro, su questo anche Repubblica fa una pagina molto interessante. Il titolo è questo, è abbastanza enfatico, su questi temi bisogna sempre andarci cauti con i titoli, ma è questo: pronti a vendere il test per il cancro, a pagina 35. Elena Dusi racconta l'annuncio di una società finanziata da Bill Gates e Jeff Bezos e sarà sul mercato tra 3 anni l'esame del sangue per scovare nel DNA le tracce dei tumori. Costerà fino a $1,000, ma promette, questa almeno è la sfida lanciata, di fare una diagnosi ancor prima che si manifestino i sintomi della malattia. Tanto che, racconta Repubblica, addirittura c'è un riferimento nella società al sacro Graal, che non sembra esagerato, perché la sfida è proprio questa: scoprire un tumore con un esame del sangue prima che abbia causato danni all'organismo segnerebbe una svolta nella lotta alle malattie tumorali. Nell'impresa si è lanciata Grail, questa nuova società americana che promette di scovare tumori molto precoci cercando le loro impronte digitali nel sangue. Scovare il tumore con un semplice test nel sangue è una delle frontiere della medicina di oggi, visto che le cellule malate, quando muoiono, rilasciano dei frammenti del loro DNA nel sistema circolatorio. E con un'accuratezza che resta comunque da affinare, le piccolissime tracce di DNA potrebbero essere riconosciute. Studiando le loro caratteristiche è possibile risalire all'identikit del tumore, all'organo colpito, ancor prima che compaiano i sintomi. Questo è l'annuncio di Repubblica. Come vedete, insomma, ci sono tante notizie legate poi anche al nostro futuro, mettiamola così. Invece, se vogliamo venire alle notizie politiche, diciamo, la prima che ha colpito è quella del 2 per 1000 degli italiani ai partiti. Vedete come una cifra può essere presentata in modo diverso. 2 per 1000, quanti sono gli italiani che hanno dato i soldi del 2 per 1000 ai partiti? L'anno prima erano stati il 0,4% dei contribuenti, pochissimo. Quest'anno un po' di più, cioè lo scorso anno un po' di più, 2,7%. Beh, ragazzi, ma siamo sempre meno di 3 italiani su 100, meno di 3 italiani su 100. E allora ecco qua, soldi ai partiti, flop del 2 per 1000 è il titolo del giorno. E ancora, un flop il 2 per 1000 ai partiti politici è il titolo di Italia Oggi ed è il titolo peraltro di prima pagina. E anche il Messaggero, per la verità, dice è un flop. Il Sole 24 Ore invece a pagina 17, 2 per 1000 ai partiti, i partiti fanno il pieno, PD record. Marco Mobile e Marilina Sesto dicono che il flop è stato quello del 2014. Dopo il flop 2014 i partiti fanno il pieno di finanziamenti con il 2 per 1000. È vero, la percentuale di contribuenti che opta per destinare alla politica la piccola quota rimane bassa, al 2,70%, cioè 1,1 milioni di contribuenti su 41 milioni totali. Ma di fatto quest'anno non un solo centesimo dei fondi è rimasto allo Stato. Ecco, 9,6 milioni era il fondo a disposizione, sono stati di fatto tutti distribuiti. Chi ha preso di più? Il Partito Democratico, si è preso praticamente metà, 5 milioni 358 mila. La Lega 1.109.000, Sinistra Ecologia e Libertà 881.000, Forza Italia 500.000 euro, fino vabbè, a scendere agli altri. Va bene, questo per i partiti, ma andiamo al premio Mani sul Volante. L'articolo che mi fa più incazzare della giornata è l'odissea giudiziaria raccontata da Andrea Rossi sulla Stampa, pagina 16, la sentenza che non si ferma nemmeno con la morte. È una vicenda che nasce nel 1992, dopo un concorso per un posto da primario all'ospedale Regina Elena di Roma, il professor Filippo Fanini, che si era candidato a dirigere la chirurgia plastica ricostruttiva all'ospedale generale Figlie di San Camillo, perde il concorso e fa ricorso perché c'è qualcosa che non va, secondo lui, in quell'assegnazione della cattedra a un altro professore. E qui si racconta l'idea, l'odissea giudiziaria. Per 9 anni non succede nulla, al 10° anno cambiano i giudici, trascorrono altri 9 anni, è il 2011, quindi sono già passati quasi 10 anni, quasi 20 anni, 20 anni, gli dicono che il giudice a cui si era rivolto era sbagliato e quindi fa un altro ricorso. All'inizio gli danno torto, alla fine gli danno ragione, alla fine dicono: oh, finalmente ha ragione, ma verrà fissata una nuova udienza che richiederà un giudice, un cancelliere, chissà quante altre persone, solo per prendere atto che nel frattempo il professor Fanini è morto. E quindi il caso è chiuso. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che... Alessandro Milan, il cugino morbido dell'informazione... Il cugino morbido. Oh, mandateci le vostre sigle, i vostri stacchetti, che noi poi li mandiamo in onda. La segreteria è sempre quella, non diamo spesso il numero, ma eccolo qui, segnatevela, è 02 46 52 4492. Sono stato veloce. 02 46 52 4492, così anche insomma le nostre amiche nonnine e i nostri amici nonnini hanno fatto in tempo a prendere nota. Oh, un grande abbraccio che arrivi fino a Helsinki in Finlandia, da dove ci scrive Tommaso e dice: sono qui e ascolto Radio 24 anche da quando mi sono trasferito qui, perché siete il mio contatto con l'Italia. Questo è quello che mi piace quando raggiungiamo tutto il mondo. Viva Helsinki, viva Tommaso, viva la Finlandia. Allora, cari ascoltatori, è un po' deprimente se devo mettere a confronto lo spazio dato alle notizie solite di politica italiana con quello che è successo a Istanbul, dove nel giro di 2 giorni insomma le pagine sono un paio, eppure è successa, pare, una cosa molto grave, no? Tra l'altro che coinvolge la Turchia, la Russia, sapete tutto lo scenario che c'è stato dopo che la Turchia ha abbattuto il jet russo in Siria, la Russia che disse attenzione alle ritorsioni, ora la Turchia che accusa la Russia di essere in qualche modo dietro all'attentato che c'è stato ieri, l'altro ieri a Istanbul. Beh, intanto l'attentatore kamikaze ridotto a brandelli dall'esplosione, ma le autorità turche dicono di avere riconosciuto attraverso le dita ritrovate sul luogo dell'attentato Nabil Fadli, nato in Arabia Saudita, classe 88, di recente vissuto in Siria, molto probabilmente militante dell'ISIS, arrivato in Turchia come profugo. Un centro di accoglienza per migranti a Istanbul lungo il Bosforo ha registrato la sua richiesta di asilo il 5 gennaio. Sarebbe lui dietro l'attentato. No, dico, deprimente il confronto e lo spazio dato poco a queste notizie rispetto a quelle che sono il chiacchiericcio, le solite questioni e le solite beghe interne politiche. Anche perché, attenzione, la questione dell'ISIS, oggi il Secolo XIX mette un allarme molto inquietante in prima pagina, il secolo XIX, due uomini ISIS in Liguria. Questo è il titolo. Armati e pericolosi. Caccia un furgone belga tra Ventimiglia e Genova. Su un furgone grigio con targa belga ci sono due appartenenti all'ISIS. Sono in Liguria, o ci potrebbero passare presto, o sono già passati verso la meta finale, la Siria. L'allarme della polizia francese, che martedì lo ha girato a tutte le polizie dei paesi confinanti, convinta che i due siano armati, pericolosi e fiancheggiatori del califfato. Tra le ipotesi avanzate da Parigi c'è quella di un passaggio alla frontiera di Ventimiglia per poi imbarcarsi da Genova verso la Siria. L'allarme in Europa ovviamente resta altissimo. Caccia due uomini dell'ISIS, Tommaso Fregatti e Marco Grasso, a pagina 2 del secolo XIX, raccontano di questo terrore vero e proprio che rischia di spargersi in Liguria. Ecco, mentre le tensioni sono queste, si discute di colonia, si discute del tema Libia, e qui discutiamo delle unioni civili, che per carità saranno un tema importante, sono un tema importante, ma quello che dico io è basta discuterne, basta, sono 30 anni che di volta in volta si discute di questa vicenda e poi non se ne fa nulla. Come scrive oggi nel suo graffio a pagina 3 della Stampa, Iena: chissà se prima di morire riuscirò a vedere la legge sulle unioni civili. Ecco, o una legge o un no definitivo e basta, e non se ne parli più. Non c'è intesa. Nel PD i cattolici resistono all'adozione. C'è questo dibattito su quando la legge andrà in aula. Il 28 gennaio è il disegno di legge che andrà in aula, non più il 26, slittamento di due giorni, e vabbè, abbiamo atteso 30 anni, possiamo attendere anche due giorni in più, però insomma, poi inizierà il solito balletto, discussioni, dibattiti, eccetera, chissà se ne verrà fuori qualcosa. Tra l'altro, le notizie di politica forse più interessanti sono altre, tra poco poi parleremo anche di Quarto. Il rimpasto, anzi no, attenzione, non si può chiamare rimpasto. Il retroscena di Francesco Verderami in prima pagina del Corriere della Sera dice che Renzi lo vuole chiamare ristrutturazione di governo, perché rimpasto mediaticamente è un nome infausto. Comunque arriverà la ristrutturazione, è un rimpasto, insomma, per riequilibrare politicamente con NCD soprattutto alcuni rapporti, e quindi dare qualche poltrona qua e là, come si è sempre fatto. Però adesso si chiama ristrutturazione. Pagina 1 e 13 del Corriere della Sera. Chi entrerà? I più accreditati sono l'attuale vice di Orlando alla giustizia, Costa, che potrebbe diventare ministro agli affari regionali, l'ex sindaco di Milano Albertini, e poi potrebbe tornare come sottosegretario Gentile, che aveva lasciato l'incarico dopo il caso del giornale Calabria Ora, nel quale era rimasto coinvolto il figlio, poi scagionato dalle accuse. Quanto al PD, potrebbe essere promosso Nannicini, consigliere economico del Premier, si prepara a diventare sottosegretario. Ma rimangono altre quattro caselle vuote, una al viceministro degli esteri, dopo che ha lasciato Pistelli, ed è impredicato di diventare un giovane della sinistra Dem, Amendola. Tutto verrà fatto il 21 gennaio, così giura Francesco Verderami. Ristrutturazione di governo. A proposito, tra l'altro, di Renzi, il Fatto insiste con questa ossessione, racconta il Fatto, ossessione, questo è il termine usato, per gli orologi. Sapete che c'è tutta la questione degli orologi sauditi, eccetera. Ora ci sono foto, e Carlo Tecce torna su questa vicenda a pagina 4, quando Renzi scroccò un orologio pure al premier estone. Si racconta, nel luglio 2015, durante uno dei convegni europei, gli incontri, insomma, dei premier, che Renzi rimase folgorato da un orologio sfoggiato dal premier estone. Il premier estone si chiama Roivas, credo, e insomma è rimasto talmente contento, ha fatto un apprezzamento, ha fatto due apprezzamenti, ha fatto tre apprezzamenti, al terzo apprezzamento per l'orologio con cinturino in legno disegnato e fabbricato da una società di studenti estoni per il premier estone anche, ecco che allora Roivas si è tolto l'orologio, lo ha dato a Renzi, e c'è tanto la foto sul Fatto Quotidiano del passaggio di consegne di questo orologio. E allora Tavi Roivas, convinto al regalo durante i vertici europei con tante di foto, il Fatto Quotidiano dice: ma che c'è proprio un'ossessione per gli orologi, il premier Renzi. E vabbè, e poi c'è la vicenda di Quarto, che vedremo tra poco. Prima è il momento di celebrare il fatto che abbiamo spezzato le reni al Carpi, nonostante gli auguri ovviamente da gufo, del gufo, da gufo di Mauro Meazza. Noi siamo in semifinale di Coppa e voi non lo so. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, sono felice di trovarti così tonico e rinfrancato. Bene. È una cosa che mi rincuora tantissimo. Allora ti invito con questo stato d'animo più lieve per questa meritata vittoria, ma poi ho appreso dai giornali che ci sono stati anche momenti spettacolari da parte di alcuni giocatori della tua squadra. Quindi. La cosa mi conforta vieppiù. Senti, allora vuoi affrontare con animo più leggero anche un'altra buona notizia, tutto sommato, che ti do, cioè che allora la riforma Madia, quella che tu stai trascurando, quella della PA, quella che deve fare la pubblica amministrazione, quella che deve tra l'altro ridurre le camere di commercio, intervenire sulle società partecipate, forse non la facciamo domani. Slitta. Quindi hai una settimana in più per studiare. Bene. Ciao Alessandro, ecco, come non ti senti un po' come quando a scuola un professore decide di non interrogare? Ecco, qua hai una settimana in più per studiare, perché cosa puoi studiare? Puoi leggere oggi sul Sole 24 Ore alcuni dei contenuti che si stanno esaminando, preparando per questi decreti attuativi. Poi ti voglio anche dire, questa potrebbe veramente essere una buona notizia, c'è un modo di arrivare a un'intesa con l'Unione Europea, con la Commissione, sulla bad bank. Sai cos'è la bad bank? Sì, la bad bank. No, sei distratto da questioni calcistiche minori e quindi magari non te lo ricordi. Allora abbiamo un problema di crediti deteriorati, cioè che non si riesce a riprendere, che sono un po' troppi nelle nostre banche, c'è la necessità di creare un veicolo per sgravare le banche da questa zavorra. Si chiama bad bank nel gergo, però la UE storce un po' il naso. Forse adesso abbiamo trovato un modo di andare d'accordo. Sappi che oggi c'è Casa 24, perché è giovedì, e quindi giovedì c'è Casa 24, con il Sole 24 Ore parliamo questa volta, tra le altre cose, del prestito ipotecario vitalizio, che è quella forma di prestito che le persone oltre 60 anni possono ottenere pur rimanendo proprietarie della propria casa. Trovi tutti i particolari su Casa 24 di oggi. Naturalmente molte altre cose ti vorrei dire, ma anche che puoi stare un po' più sereno sulle nostre email, sulle email che ci scambiamo anche di forma calcistica, perché oggi su Norme e Tributi, pagine che tu leggerai come sempre religiosamente. Mi sono anche attorcigliato la lingua. C'è una spiegazione della reale portata e delle conseguenze di questa decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Bene. Sulla licenziabilità. Tutto. Mi sento, non so, distratto. Sei distratto, stai pensando al tabellone. Stavo scorgendo appunto la semifinale di Coppa Italia. Ah, ma capisco. È una cosa che tu hai anche magari registrato per poter rivedere. Non devi essere così pessimista, ci saranno anche altre vittorie, no? Sicuramente. Anzi, io trionfo. Ti faccio tanti cari auguri anche a te, anche a te. Tua squadra. Anche a te. E a questo punto, caro Alessandro, molto altro ti vorrei dire, ma il tempo è tiranno e quindi traffico. Alessandro Milan, l'Alessandro Milan dell'informazione, mamma mia! Ma che di che bisogno aiuto? Di che bisogno ha questo signore? Però, insomma, eccoci qua, siamo pronti, eh? Siamo qua. Ti do anche il mio cellulare e intervengo prontamente. Caro amico, allora la vicenda di Quarto ancora ben presente sui giornali, si parla di di nuova, tra l'altro, indagine e nuovi interrogatori in vista come testimone per il sindaco Rosa Capuozzo, che tornerà oggi in procura travolta dalle indagini sull'infiltrazione della camorra. Ci sono interviste, ci sono i resoconti della resistenza ora dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, Simona Brandolini e Fulvio Bufi, a pagina 10 del Corriere della Sera, raccontano: non ci potete cacciare, il Movimento 5 Stelle siamo noi, ecco il fronte dei 15 che resistono dopo l'espulsione del sindaco dal Movimento. C'è anche un'intervista a Concetta Aprile su Repubblica, Concetta Aprile, consigliere del Movimento 5 Stelle, che dialogava al telefono con Rosa Capuozzo mentre parlano dei vertici di Di Maio, dei vertici nazionali, che dice: chieda al sindaco i dettagli del perché non ha denunciato il ricatto. Il sindaco però ha sempre detto che l'abuso o l'illecito sul condono non c'è stato a casa sua, e quindi cadeva al presupposto delle pressioni. Siamo compatti e vogliamo dare un futuro a Quarto. Dunque non solo resiste il sindaco, ma pare che vogliano resistere anche tutti i consiglieri. Però al di là delle analisi, c'è chi poi analizza come il giornale questo video che hanno fatto i tre del direttorio di Battista, Fico, Di Maio, dicendo: ma come, ma insomma non sono apparsi dal punto di vista della comunicazione strategicamente positivi, anzi hanno fatto un po' una figuraccia. Ma ci sono anche giornali, Il Fatto Quotidiano, Libero, su tutti, a dire: ma questo che è stato alzato su Quarto, non diciamo che sia una sorta di polverone, ma è chiaramente un qualcosa per coprire problemi più gravi. Per esempio, oggi Il Fatto Quotidiano dice: a 25 chilometri da Quarto, Villa di Briano, in provincia di Caserta, non scorgerete folle di cronisti, non scorgerete dirette di piazza, qui tutto è avvolto nel lavoro di una commissione prefettizia arrivata a ottobre in silenzio. Eppure, tra gli indagati c'è Nicola Caputo, eurodeputato del Partito Democratico, che viene definito da Vincenzo Iurillo sul Fatto l'euro inquisito del PD, tra feste, voti loschi, l'ombra del clan. Ancora più esplicito è Maurizio Belpietro, in prima pagina di Libero. Il direttore di Libero dice: non conosco la vicenda di Quarto, non conosco Rosa Capuozzo, credo che fino a poco più di una settimana fa il 99% degli italiani non sapesse neppure che Quarto è un comune italiano e ignorasse totalmente il nome della sindachessa che da 6 mesi si è insediata in municipio. Ma, dice Belpietro nel suo editoriale, è una spettacolare manovra per coprire lo scandalo di Banca Etruria. È il colpo perfetto di Renzi per silenziare il Boschigate, visto che da settimane la maggioranza non sapeva come nascondere lo scandalo Etruria. Ora Maria Elena, cioè la Boschi, può tirare il fiato grazie a una bega di provincia dei grullini. Così definisce Bechis, dice: sono cascati nella trappola di Renzi. A proposito della Banca Etruria, il papà della Boschi, invece è Il Giornale a mettere questa notizia in prima pagina: il tam-tam dal CSM, Boschi, il papà Boschi, presto indagato. Dopo l'audizione del PM Aretino Rossi a Palazzo dei Marescialli, sede del CSM, si dà per scontata l'inchiesta sull'ex vicepresidente di Banca Etruria. Così Il Giornale. Lasciamo la politica. Ci sono novità è politica anche questa, anche se riguarda tutti noi. È una notizia che è data con ampio risalto sulla Stampa, sul Messaggero e su Il Secolo XIX. Dedicano una pagina a questo: l'eutanasia in Parlamento a marzo. È la prima volta, si preannuncia lo scontro in una maggioranza divisa. Verrà presentata una legge, una proposta di legge per legalizzare l'eutanasia. Non si sa se ci sono i numeri. Ancora si ricorda nell'articolo la vicenda di Eluana Englaro, che con l'eutanasia non c'entra nulla, ma insomma si mette un po' insieme tutto. Però diciamo che la novità in arrivo c'è. A marzo si discuterà e calendarizzata la legge sull'eutanasia. Mentre il Corriere della Sera mette a pagina 2 e 3 la vicenda dei Marò, che torna in primo piano, ne abbiamo parlato anche i giorni scorsi e c'erano articoli sui giornali, perché l'India intanto ha dato un segnale, il segnale che è stato allungato il permesso per rimanere in Italia per una delle due marocche già in Italia, vale a dire Massimiliano La Torre, mentre Salvatore Girone rimane per il momento in India. Due pagine del Corriere della Sera per fare il punto sulla vicenda, Marò. C'è anche molto di pagine di cronaca su tutti i giornali sulla sentenza nei confronti di Martina Levato e uno dei suoi complici. Sono coloro definiti come la banda dell'acido, e definisco banda perché sono stati condannati a 16 anni e perché è stata riconosciuta in questa un'associazione a delinquere, un gruppo che ha sfigurato alcune persone, una delle quali tra l'altro proprio non c'entrava nulla, non che gli altri c'entrassero e meritassero questo, certo, ma una è stata proprio scambiata per un'altra persona. Si tratta di Stefano Savi, che ieri era in tribunale per assistere alla condanna e oggi rilascia un paio di interviste a Repubblica e al Giorno. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qui, una mezza pagina sul Corriere della Sera. Serena Danna racconta la vita dell'ex guru di Cameron, che ora ha una startup nella Silicon Valley. E che ha fatto questo ex guru di Cameron? Che ha fatto secondo voi? E lo raccontiamo in mezza pagina sul Corriere della Sera. Vive senza cellulare e dice: vivere senza cellulare si può. Ma chi se ne frega!